giorno di Simone Spezia. 8 anni di stop per Blatter e Platini, ha deciso il comitato etico della FIFA, la replica del presidente della federazione. Sono triste, continuerò a combattere, andremo in appello. Maggioranza virtualmente impossibile in Spagna dopo le elezioni. Ai popolari la maggioranza relativa, ma socialisti e Podemos sono oltre il 20%. Il leader di Podemos, Iglesias, pochi istanti fa ha detto è tempo di un compromesso storico. Sulle banche parla Cantone, al quale saranno affidati gli arbitraggi. Sarà un garante, non un parafulmine, le inchieste verso nuovi indagati. Fa discutere il corso per i profughi lanciato in Norvegia per prevenire le violenze sessuali. Insegna tra l'altro che la donna non è proprietà dell'uomo. Il Papa elenca le virtù da perseguire per la curia. Prima l'onestà è la base di tutte le altre. Ai dipendenti vi chiedo perdono per gli scandali. 5 squadre in 4 punti, campionato apertissimo dopo la sconfitta dell'Inter e la Juventus che torna sotto. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Effetto Giorno @radio24.it per scriverci o il 349-238-6666, tanto per gli SMS quanto per WhatsApp. In apertura dunque andiamo alle decisioni del comitato etico della FIFA su Joseph Blatter e Michel Platini. Abbiamo in diretta il nostro Carlo Genta. Carlo, ciao, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno. Finalmente finita questa vicenda, almeno in primo grado, perché come annunciato da Blatter ma anche dallo stesso Platini ci sarà un appello al TAS. 8 anni di squalifica, ricordiamo era stata chiesta la radiazione per entrambi. Di fatto cambia poco, perché contano gli effetti politici. Platini non potrà correre per la presidenza della FIFA e di fatto non si era ancora ritirato. E per Blatter invece, 79 anni, il Kaiser del calcio mondiale, la carriera è ormai finita, si tratta di salvare l'immagine e anche di uscire da problemi giudiziari di cui sentiamo quasi ogni giorno. Sì, tra l'altro Blatter si è difeso in una combattiva conferenza stampa, proprio probabilmente appunto per salvare l'immagine. Forse ne possiamo sentire un passaggio, sentiamo qua. So, and this is on these allegations that I have given gift. Ed eccolo qua, Blatter che si difende proprio anche sul punto singolo, appunto sulle accuse, quelle di consulenze per 2 milioni di franchi svizzeri. Però dicevi, sì. Carlo, sostanzialmente è finita, no? Sostanzialmente è finita, la carriera politica di Blatter era finita da tempo. L'unica cosa che poteva fare, non dimentichiamo che è notizia dei giorni scorsi, c'è un'indagine nei suoi confronti per un centinaio di milioni di euro per le solite questioni di tangenti relative a diritti televisivi in Sud America, quindi il quadro è molto complesso. La carriera politica di Blatter era di fatto finita, poteva indirizzare l'elezione di un nuovo presidente della FIFA verso un suo delfino. Mentre tutto questo non è avvenuto, è stato così deciso dal comitato etico, valgono quei soldi, quei 2 milioni di franchi svizzeri, e lo sappiamo bene, l'abbiamo detto tantissime volte in questo periodo, per una lontana consulenza di Platini nei confronti della FIFA. Di fatto oggi viene comunque stroncata la carriera politica di Platini, del presidente dell'UEFA. Quanto a Blatter, vabbè, potrà difendersi in tutte le sedi che vorrà, lo farà lo stesso Platini, però io credo si apra un'altra era, e non dimentichiamo che sono giochi geopolitici ed economici molto grandi. In questo momento c'è la Federazione Nordamericana che è estremamente potente e che spinge per una presidenza Hussein con Gianni Infantino segretario generale, quindi con ogni probabilità, visto che le elezioni sono alle porte il 26 di febbraio, questa sarà la nuova struttura della FIFA. Possiamo dire, con un'espressione un po' retorica, che si chiude questa epoca. Grazie a Carlo. Prego. Genta, che tornerà, immagino, a parlare di tutto questo in tutti i convocati, ovviamente parlando anche di campionato, e tra poco ci arriveremo al campionato perché è stata una giornata importante quella di ieri. Noi torneremo a parlare più avanti, lo faremo di tutto questo, lo faremo con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Veniamo all'altra notizia importante di giornata, che è il risultato delle elezioni spagnole, che hanno lasciato un risultato molto incerto, e quella che forse è un'inaspettata apertura, arrivati da pochi stati fa in conferenza stampa dal leader di Podemos. Abbiamo il nostro inviato a Madrid, Sergio Nava, che è proprio nella sede di Podemos. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno, forse state anche ascoltando in sottofondo Pablo Iglesias, che proprio in questi istanti parlando qui nella sala stampa dove sono riunite decine di giornalisti spagnoli e internazionali. Iglesias ha parlato di un nuovo compromesso storico e di una nuova transizione politica. Sentiamo un passaggio. Buenos días a todos y a todas. Se abre un tiempo de compromiso histórico en nuestro país que debe estar marcado por el cambio constitucional. Iglesias soprattutto ha detto che inizierà un giro di contatti con le altre forze politiche ora per cercare di uscire dal rebus della formazione di una coalizione di governo in Spagna. Ha già però reso note le sue linee rosse, almeno in materia di politica interna, e ha appena lanciato un messaggio molto forte alla Germania, perché ha detto la sovranità è la parola d'ordine, sarà la parola d'ordine, la Spagna non sarà più una periferia della Germania. Sentiamo ora invece quello che ha detto ieri il premier uscente Mariano Rajoy del PP dopo i risultati. España necesita un gobierno que tenga apoyo parlamentario. Buscaré, por tanto, un gobierno estable y buscaré un gobierno... Rajoy ieri ha reso chiaro che cercherà di formare la coalizione di governo avendo vinto formalmente le elezioni, però ha riconosciuto che sarà un compito assolutamente difficile, considerato proprio che non ci sono i numeri per poter formare una maggioranza, una coalizione al momento. È un vero e proprio rebus quello che affronta le forze politiche spagnole. Al momento abbiamo solamente l'apertura di Pablo Iglesias, che ha detto che prenderà contatti con le altre forze politiche. Più tardi si riunirà anche il Partito Popolare di Mariano Rajoy e forse si capirà meglio quale sarà la strada che il partito uscito formalmente vincitore dalle elezioni intraprenderà. In ogni caso la confusione a Madrid, almeno dal punto di vista politico, è ancora grande. Da Madrid per il momento è tutto. E grazie al nostro Sergio Nava per questo aggiornamento, e sempre con il nostro Sergio Nava torneremo a collegarci nel corso della trasmissione per tornare a fare un punto su tutto quello che sta succedendo in Spagna. La cronaca sulle vicende delle banche, è stato un fine settimana denso di dichiarazioni e prese di posizione. Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco è stato tra l'altro ospite di Che Tempo Che Fa, mentre ha parlato anche il capo dell'autorità anticorruzione. Un punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno, partiamo allora proprio da Raffaele Cantone, ricordando che Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione, è stata affidata da Renzi l'arbitrato sui bond delle quattro banche salvate. Cantone oggi spiega: l'autority non si occupa né si occuperà di banche, ma farà da arbitro garantendo correttezza e terzietà ai privati. Non sarà nemmeno né un parafulmine per il governo né una foglia di fico. Il presidente dell'ANAC spiega quindi il ruolo della Camera arbitrale rispetto alle rivendicazioni dei risparmiatori e alla parte pubblica chiamata a pagare i risarcimenti. Lo Stato, ci deve essere un terzo che decide, l'arbitro appunto, che sarà scelto dalla nostra struttura in base a criteri che in parte bisognerà scrivere nella legge che ci affida tale compito. Altro fronte poi, Simone, quello della Banca d'Italia. Il governatore Visco difende l'istituzione da lui guidata. È stato fatto il massimo possibile e scongiurato molte crisi e i risparmi degli italiani sono al sicuro. Visco poi ribadisce: la Banca d'Italia agisce senza favoritismi e con ispezioni rigorose, facendo emergere lei le situazioni di difficoltà, ma secondo i suoi poteri e limiti stabiliti dalla legge. Norme, chiarisce il governatore di Banca Italia, che le impediscono di intervenire sulle banche anzitempo. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, mentre proseguono le inchieste. L'attenzione dei magistrati di Arezzo al lavoro su decine di denunce arrivate da risparmiatori che sostengono di essere stati truffati è tutta rivolta ai vertici e ai manager della Popolare dell'Etruria. La banca, ha raccontato agli inquirenti il capo del team ispettivo di Banca Italia, Gatti, è stata governata da consiglieri privi di competenze ma ben remunerati, che hanno lasciato totale autonomia all'alta direzione, quindi al direttore generale Bronchi, al presidente Rosi, già indagato, e ai due vice Boschi e Berni, su cui pende un procedimento disciplinare. Le carte ora sono in mano al PM Roberto Rossi, il quale dovrà valutare se gli illeciti amministrativi abbiano anche un profilo penale. Prima però lo stesso procuratore dovrà dimostrare di non essere in conflitto di interessi, visto che da agosto 2013 è consulente di Palazzo Chigi. A Roma la procura indaga invece sulla possibile omessa vigilanza di Consob e Banca d'Italia. Proprio davanti a Palazzo Koch, domani alle 10, si riuniranno le vittime del salvabanche, così si chiama il loro gruppo su Facebook, per manifestare insieme ad Adusbef e Federconsumatori. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tra queste vicende e tra quelle che riguardano la legge di stabilità, oltre che tra le tensioni all'interno di Forza Italia, che si naviga in queste ore nella politica. Il punto con Elisabetta Fiorito. Buongiorno Elisabetta. Sì, buongiorno Matteo. Renzi risponde sulla legge di stabilità: imprime cambia mentalità, è fatta per i miei amici, ovvero gli italiani, nessuno escluso, i miei amici sono i nostri figli, i nostri nipoti, per questo dal 2016 il rapporto debito-PIL torna a scendere, non accadeva da 10 anni, il primo bonus di questa legge elettorale dunque è il debito che va giù. Sulle banche non mi sottraggo alle domande, dice il Premier, la polemica non oscura la manovra, gli grandi esperti, che raramente ne azzeccano una, dicono che questa legge di stabilità è fatta di bonus, probabilmente hanno nostalgia di quella fatta di malus. Riguardo quindi al voto in Spagna, Renzi dice anche che bisogna capire se l'Europa si renderà conto che una miope politica di rigore e austerità non ci porta da nessuna parte, e questo lo dirò nei prossimi mesi, spero in compagnia sempre più numerosa. L'altro fronte invece è Forza Italia, che perde un altro pezzo, Renata Polverini è pronta a confluire in ala il partito di Verdini. In Forza Italia sembra tutto finito, dice Polverini, e abbiamo offerto uno spettacolo a dir poco indecoroso. A te Simone. Grazie anche ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento, e veniamo alla classifica realizzata ogni anno dal Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Quest'anno in cima alla classifica si piazza Bolzano, mentre Milano balza al secondo posto dall'ottavo. È Bolzano a vincere l'edizione 2015 della qualità della vita. La provincia altoatesina mette a segno il suo quinto primato nell'indagine con cui da 26 anni il Sole 24 Ore confronta attraverso le statistiche la vivibilità sul territorio. Sul podio sale anche la collega di regione, Trento, che si deve però accontentare del terzo posto. Infatti l'argento se lo prende Milano, soprattutto grazie agli indicatori del benessere e dei servizi. Un successo peraltro atteso dopo che l'operazione Expo ha portato il capoluogo lombardo al centro dell'attenzione del mondo. Anche quest'anno l'indagine si snoda attraverso 6 aree tematiche: tenore di vita, affari e lavoro, servizi ambiente e salute, popolazione, ordine pubblico e tempo libero, per un totale di 36 indicatori con relative classifiche. Quanto agli elementi che hanno portato al primato di Bolzano, ci sono in primo luogo quelli economici, come l'alto tasso di occupazione, la scarsa quota di crediti in sofferenza e il buon livello dei consumi, voti alti anche nell'indice di vecchiaia e nel capitolo turismo. Abbastanza scontato il risultato nella parte finale della classifica, qui si trova una concentrazione di centri del mezzogiorno con Reggio Calabria all'ultimo gradino, Vibo, Valenza al penultimo e poco distante la provincia al di là dello stretto, Messina. Ancora una volta l'indagine ci restituisce la fotografia di un'Italia drammaticamente tagliata in due. Rossella Cadeo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tutti i dettagli li trovate tanto sul Sole 24 Ore oggi in edicola, quanto da quest'anno in una sua estensione digitale, da oggi online, la mappa interattiva con i risultati provincia per provincia. I lettori possono esaminare i risultati e commentarli sia sulla pagina Facebook del Sole 24 Ore sia su Twitter con l'hashtag QDV15 e l'account ovviamente del Sole 24 Ore. Abbiamo parlato di Milano, che balza al secondo posto della classifica, un capitale da non sprecare per chiunque arriverà dopo Pisapia. Daniele Biacchessi. Milano è balzata al secondo posto della classifica sulla qualità della vita delle città italiane, secondo il Sole 24 Ore. I dati accertano che il capoluogo lombardo è ai primi posti per tenore di vita, servizi, ambiente, salute, affari, lavoro, tempo libero, un po' meno sul piano dell'ordine pubblico. È certamente una sorpresa, frutto però di un percorso, di un pensiero lungo, più in generale di una buona amministrazione. Giuliano Pisapia ha puntato fin dai mesi della campagna elettorale sulla partecipazione dei cittadini al governo della città e sulla condivisione, dal bilancio partecipato fino all'area C, al successo del bike e car sharing, all'aumento degli eventi culturali e di spettacolo, fino alla ristrutturazione e al rinnovamento di ampie aree urbane, come ad esempio la Darsena. L'amministrazione milanese ha poi dovuto gestire la lunga e contrastata preparazione di Expo 2015, risultata poi un successo con numeri record di presenze. Ora Milano sta scegliendo la sua nuova classe dirigente politica, dopo l'indisponibilità di Pisapia a candidarsi per un secondo mandato. Le primarie del centro-sinistra vedranno battersi Giuseppe Sala, Francesca Balzani, Pierfrancesco Maiorino e Roberto Caputo. Il centrodestra non ha ancora un candidato ufficiale, ma Alessandro Sallusti potrebbe guidare la corsa. Il Movimento 5 Stelle schiera Patrizia Bedori. Il quadro si sta dunque delineando e le prossime settimane saranno decisive sul piano politico. Una cosa è certa: chiunque uscirà vincitore dalle elezioni amministrative di Milano 2016 porterà a Palazzo Marino un capitale umano, politico e professionale enorme, che non dovrebbe essere disperso, per il bene della città, dei suoi abitanti e del paese. Questo è il quadro della classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore. Veniamo a parlare di quello che succede in Norvegia, dove fanno discutere i corsi per migranti. Sentiamo. Costringere una donna ad avere rapporti sessuali è illegale, anche se con questa persona siamo sposati. È questo uno dei punti contenuti nel programma di rieducazione dei migranti proposto ai profughi che arrivano in Norvegia. Il programma è su base volontaria e, secondo gli ideatori, ha l'obiettivo di prevenire violenze sessuali fra coloro che arrivano da paesi in cui le donne vivono in condizione di segregazione o disparità rispetto all'uomo. La prima città norvegese ad avviarlo è stata Stavanger, centro dell'industria petrolifera del paese, in seguito a un'ondata di stupri commessi da stranieri fra il 2009 e il 2011. Ora anche la Baviera e la Danimarca stanno pensando di avviare corsi simili. Il programma è però controverso. C'è chi lo considera un aiuto all'integrazione e chi ha paura di stigmatizzare i migranti come potenziali stupratori e di fare così il gioco di movimenti razzisti e xenofobi. Quel che è certo è che la Norvegia, un paese di 5 milioni di abitanti, ha dato asilo quest'anno a 30.000 persone. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Poi subito dopo ci ritroveremo, torneremo a parlare della FIFA per fare un approfondimento un po' più dal lato politico e geopolitico della decisione del comitato etico, appunto, della FIFA, che ha deciso di bloccare, di sospendere Platini e Blatter per 8 anni. E poi ci occuperemo dello smog soprattutto nella pianura padana. Oggi si è vista un po' di pioggia, ma a quanto pare non basta. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In primo piano il caso della FIFA, 8 anni di stop per Blatter e Platini, lo ha deciso il comitato etico della federazione. Maggioranza virtualmente impossibile in Spagna dopo le elezioni, ma il leader di Podemos dice è il momento di un compromesso storico. Il Papa elenca le virtù da perseguire per la curia, prima l'onestà è la base di tutte le altre. 5 squadre in 4 punti, campionato apertissimo dopo la sconfitta dell'Inter e la Juventus che torna sotto. Torniamo dunque a parlare di quello che è successo con la decisione del comitato etico della FIFA, il fatto appunto che Platini e Blatter sono stati sospesi per 8 anni. Lo facciamo con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Allora, innanzitutto già qualche ascoltatore ci scrive, dice dedicate l'apertura a questo, ma poi tanto Blatter e Platini saranno, come dire, assolti in appello. Quindi innanzitutto ti chiedo una previsione su questo. Beh, è difficilissimo, però teniamo conto che qui il filone è sia giuridico, giudiziario che politico. I comitati che decidono, come il comitato etico della FIFA, è un comitato prevalentemente politico, e tutto l'assetto in questo momento degli interessi dei paesi che hanno vinto questa battaglia, in particolare Stati Uniti e Gran Bretagna, ci portano a credere che anche nei gradi successivi sarà confermato quello che è stato deciso in primo grado, cioè l'esclusione sostanzialmente a vita di Platini e Blatter da quelle che è la politica calcistica mondiale. Come già accennavi, Marco, in realtà dietro a tutto questo ci sono degli interessi politici e geopolitici ed economici di grandissime dimensioni, ed è per questo che ce ne occupiamo dando tanta rilevanza all'argomento. Puoi per sommi capi aiutarci a capire che cosa si sta muovendo dietro? Guarda, sostanzialmente tutto è nato quando gli Stati Uniti si sono visti tra virgolette scippare i mondiali che sono andati poi a Russia e Qatar, e hanno chiesto sostanzialmente un comitato che valutasse e verificasse se c'erano le prove di queste tangenti, di questa corruzione generalizzata. Il comitato della FIFA ha lavorato sotto la guida di un PM americano, Garcia. Questo dossier poi è stato segretato da Blatter, e a quel punto gli Stati Uniti hanno deciso di far scendere in campo l'FBI con gli arresti di maggio e poi tutto quello che è successo. Quindi è uno scontro tra Stati Uniti e Gran Bretagna dall'altra, e tra la vecchia nomenclatura della FIFA dall'altro lato, con la possibilità a questo punto di avere un nuovo presidente della FIFA eletto a febbraio del 2016 che sia gradito appunto agli Stati Uniti. Vediamo Vedremo chi sarà e soprattutto se avrà il coraggio di togliere o meno i mondiali del 2022 al Qatar, perché la grande battaglia si sposta proprio su questo aspetto. Brevissimamente, i candidati più probabili alla vittoria, Marco? Beh, a questo punto sono il principe Ali Hussein della Giordania, che ha già ottenuto il sì degli Stati Uniti nelle elezioni, nelle ultimissime elezioni che ha vinto Blatter prima di dare le dimissioni, e c'è anche il principe del Bahrain, quindi sono candidati medio orientali, salvo la sorpresa di Infantino, braccio destro di Platini, che è il candidato della UEFA, ma che non sembra in questo momento, almeno per il momento, coagulare intorno a sé un consenso tale da poter aspirare a essere il nuovo presidente FIFA. Grazie a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Adesso ci occupiamo di inquinamento. Per 3 settimane a Milano si sono sforati i limiti per quanto riguarda i PM10. Oggi sulla città e più in generale sulla Lombardia si è visto qualche timido cenno di pioggia. Vogliamo capire se stanno cambiando le cose. Buongiorno a Guido Lanzani, responsabile di qualità dell'aria di ARPA Lombardia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, si è vista qualche goccia di pioggia? Abbiamo già qualche risultato? E purtroppo la pioggia che è caduta è stata davvero poca e almeno fino a questo momento non ha permesso di cambiare la situazione. Le concentrazioni infatti sono a questo momento ancora sostanzialmente sui livelli dei giorni precedenti. Quindi non è cambiato niente o è cambiato molto poco in sostanza? Sì, diciamo che per cambiare la situazione è necessario un cambiamento della massa d'aria. Pochi millimetri di pioggia sicuramente non sono in grado di stravolgere la situazione in atto. Che cosa intendete per un cambiamento della massa d'aria? Ce lo spiega? Lo spiega, se può, semplicemente ai nostri ascoltatori? Diciamo che le concentrazioni che respiriamo in questi giorni sono il frutto di un accumulo di più giorni. La pioggia è efficace nell'abbassare le concentrazioni se è molta e se è abbondante. Altrimenti è necessario che con l'arrivo di un fronte dell'aria nuova, pulita, proprio scalzi la massa d'aria presente con questo elimini anche tutti gli inquinanti che si sono accumulati. Questo intendiamo per rinnovo della massa d'aria. Avete delle previsioni? Ovvio che naturalmente, come sappiamo, le previsioni oltre i 3 giorni sono piuttosto difficili da fare, ma da quel che abbiamo capito non cambierà nulla almeno fino a gennaio. Che idea avete e che indicazioni avete? Io posso confermarle che le condizioni anticicloniche si manterranno ancora per qualche giorno. Non sono in grado di andare oltre, anche se la configurazione di questo periodo è davvero stabile, quindi può far pensare a un perdurare dell'episodio ancora per più tempo. A meno che appunto non cambi la massa d'aria o non piova in abbondanza. Ma questo deve essere legato a un cambiamento delle condizioni meteorologiche complessive, quindi sostanzialmente una rottura dell'alta pressione. Se questa non avviene, saranno comunque solo fenomeni limitati. Bene, bene, grazie a Guido Lanzani, responsabile qualità dell'aria ARPA Lombardia. Vi abbiamo detto che avremmo parlato anche di calcio giocato. Eccoci. Nella giornata in cui vincono tutte le big, a steccare è proprio la capolista Inter, che cade a sorpresa a San Siro contro la Lazio. 2-1 per i biancocelesti, avanti al quinto con Candreva, poi raggiunti a inizio ripresa da Icardi, prima del rigore decisivo per l'inutile fallo di Melo su Milinkovic, in seguito entrambi espulsi, che Candreva insacca malgrado la ribattuta di Handanovic. Serata no per i nerazzurri, proprio quello che Mancini temeva. Eravamo troppo disattenti, l'errore lì sul rigore che non si può commettere, non può commettere né lui né altri giocatori. A un solo punto dall'Inter si fanno sotto allora la Fiorentina, che piega 2-0 il Chievo, e il Napoli, che passa 3-1 a Bergamo contro l'Atalanta con la doppietta di Higuain, sempre più capocannoniere, a quota 16 gol. E dietro a 33 eccola la Juve, che a Carpi passa per 3-2 e infila la 7ª vittoria consecutiva, anche se i rischi corsi negli ultimi minuti fanno infuriare Allegri, che quasi si strappa la giacca dalla rabbia. E ragazzi hanno fatto fatto bene fino a 5 minuti alla fine. A 5 minuti alla fine abbiamo fatto un po' di casino. E a 32 c'è la Roma che col 2-0 sul Genoa salva la panchina di Rudy Garcia, abbracciato da tutta la squadra dopo la rete iniziale di Florenzi. Ma è un gesto sì che ci emoziona ovviamente. Resta in scia anche il Milan che in rimonta vince a Frosinone per 4-2. Prima vittoria per la Sampdoria targata a Montella, 2-0 al Palermo, mentre l'Udinese vince a Torino contro il Granata per 1-0. Serve a poco a entrambe l'1-1 tra Verona e Sassuolo. Appuntamento ora al 6 gennaio con una Serie A ancora in cerca di un vero padrone. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo tra un attimo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati e poi torneremo in Spagna per parlare del voto di ieri. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: il leader di Podemos Iglesias dopo le elezioni che hanno dato grande incertezza alla Spagna dice il momento del compromesso storico. 8 anni di stop per Blatter e Platini, lo ha deciso il comitato etico della FIFA. Sulle banche parla Cantone, a cui saranno affidati gli arbitraggi. Sarò un garante, non un parafulmine. 5 squadre in 4 punti, campionato apertissimo dopo la sconfitta dell'Inter e la Juventus che torna sotto la borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Innanzitutto una notizia appena battuta dalle agenzie e che arriva da Reggio Emilia, dove il GUP Francesca Zavaglia ha disposto il rinvio a giudizio per oltre 140 imputati nel processo Emilia, lo ricorderete, il processo sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nella regione. La prima udienza è fissata per il 23 marzo del 2020. 16. Questa è una notizia appena arrivata, ma noi intanto torniamo in Spagna e torniamo dal nostro inviato Sergio Nava, che forse adesso è uscito dalla conferenza stampa di Pablo Iglesias, il leader di Podemos. Sergio, eccoci di nuovo. Sì, ciao Simone, la conferenza stampa è finita da una quindicina di minuti circa, quindi possiamo sentirci a livelli di volume di voce un po' più regolari rispetto a prima. Un po' meglio tutto sommato. Sergio, ci aiuti innanzitutto a fare un conto dei seggi, cioè capire un attimo come si configura questo Parlamento senza maggioranza? Allora, diciamo che abbiamo 123 seggi per il Partito Popolare, però la maggioranza, ricordiamo, è di 176, perché il Congresso qui ne ha 350. Quindi, sommando le due coalizioni possibili, cioè il centro-destra liberale eventuale popolare con Ciudadanos, oppure i socialisti con Podemos, comunque abbiamo praticamente due coalizioni che si eguagliano intorno ai 160 seggi su per giù, quindi di fatto è ingovernabile. Allora, quello che sta facendo la stampa spagnola è cercare di ipotizzare possibili coalizioni. La più probabile al momento le strade più probabili al momento restano due, o forse addirittura tre. O si arriva a una grande coalizione alla tedesca tra popolari e socialisti, oppure sempre una specie di grande coalizione, ma con la, diciamo, con l'astensione socialista, che a quel punto toglierebbe d'impiccio i popolari, oppure, seconda soluzione, qualcosa di più legato al centrodestra liberale, cioè una coalizione popolare Ciudadanos con anche qui l'astensione socialista, ma non è neppure a scartare, sarebbe la prima volta nella Spagna della transizione post-franchista che il secondo partito arrivato, cioè i socialisti, formano una coalizione di sinistra con Podemos e con altri partiti, diciamo, più regionali, autonomisti, perché, però al momento è la strada. Perché, Sergio, il punto è anche che al di là di queste quattro forze principali delle quali abbiamo parlato, c'è una folta schiera di piccoli partiti che hanno guadagnato magari due, tre seggi o cose di questo genere, con i quali però è difficile ragionare e accordarsi, per così dire. Diciamo che storicamente, paradossalmente, questi sono partiti tradizionalmente presenti nel congresso spagnolo, perché sono i partiti dell'autonomia che nel passato, e questo è anche interessante ricordarlo, erano quei partiti che a volte aiutavano a formare coalizioni quando magari il partito o il popolare, il socialista, insomma la Spagna ha una tradizione bipartitica nella transizione democratica, quando appunto uno di questi due partiti non riusciva a fare una maggioranza, arrivavano puntualmente a sostegno i partiti regionali autonomisti come Convergenza, per esempio in Catalogna, oppure altri partiti baschi, che davano puntualmente il loro appoggio e consentivano di formare una legislatura. Ora, quelli che erano un po' i puntelli delle maggioranze nel passato, delle coalizioni nel passato, ora potrebbero tornare effettivamente ancora in auge, però attenzione, perché i più importanti sono i due partiti indipendentisti catalani, e quindi chiunque voglia averli come puntello in una possibile ipotetica legislatura, penso più alla sinistra che non alla destra. Sì, perché mi sembra che da questo punto di vista Podemos sia stata abbastanza chiara e abbastanza forte, no? Allora, anche pochi minuti fa Iglesias lo ha ribadito: vogliamo che la Catalunya resti in Spagna, però noi siamo per l'autodeterminazione e quindi vogliamo che voti la Catalunya, cioè se noi andiamo al governo o comunque appoggiamo un governo, la Catalunya deve, è una linea rossa, la Catalunya deve votare pro o contro l'indipendenza, perché questa è una nostra linea rossa. Quindi il quadro è veramente molto complicato e veramente di difficile soluzione stavolta, una prima assoluta. Ecco Sergio, l'altra via d'uscita possibile, al di là della formazione di coalizioni parlamentari, è che si torni al voto in primavera, in sostanza. Sì, e qui la palla va un po' in mano al re, il re che dovrà a questo punto, diciamo che le corti si costituiranno, il Parlamento si costituirà intorno al 13-14 gennaio. Ci saranno due votazioni, il re comunque deve dare il mandato esplorativo, ci saranno due votazioni, la prima è a maggioranza assoluta, quindi chi vuole governare dovrà ottenere almeno 176 seggi, ipotesi al momento un po' traballante se non si forma una coalizione. Se non si ottiene questa maggioranza assoluta si passa a una votazione a maggioranza semplice, quindi vince, forma il governo chi ha una maggioranza e basta nel Parlamento. Se neanche questo si verifica, a quel punto l'ipotesi di un nuovo voto in primavera, potrebbe essere intorno a marzo, aprile, è molto probabile. Però attenzione che in questo momento la Spagna ha presentato un budget a ottobre che è stato di fatto respinto da Bruxelles, la manovra del governo uscente. E in teoria a Bruxelles si aspettavano che il nuovo governo appena eletto potesse presentare la sua manovra comunque inizio anno, e questo ritarderebbe a catena tutto. Altra cosa interessante, parlando di Europa, quello ha detto Iglesias: noi non intendiamo essere la periferia della Germania, l'ho detto chiaramente oggi, quindi un netto no a qualsiasi politica di austerità, e anche questo complica un po' i rapporti con l'Europa. Allora Sergio, io intanto ti ringrazio, grazie a Sergio Nava, nostro inviato a Madrid, per questo punto sulle elezioni spagnole. Noi adesso ci occupiamo del Papa, che oggi ha parlato della Curia. Sentiamo. La riforma andrà avanti con determinazione, lucidità e risolutezza. È quanto ha ribadito il Papa nel discorso tenuto alla Curia. Francesco, che ha parlato seduto perché ha raccontato di essere influenzato, ha dunque fatto riferimento al nuovo capitolo Vatilix, ricordando che proprio alcune malattie curiali manifestatesi quest'anno hanno portato ad una sincera riflessione e a decisi provvedimenti. Alla Curia il Papa ha affidato un catalogo delle virtù, un sussidio pratico, lo ha chiamato, spiegando che l'onestà è la base su cui poggiano tutte le altre qualità e la sobrietà è uno stile di vita che indica il primato dell'altro come principio gerarchico. Nel suo discorso però il Papa ha anche invitato a guardare al buono della Curia, perché ha detto sarebbe comunque una grande ingiustizia non esprimere gratitudine e un doveroso incoraggiamento a tutte le persone sane. Katia Caramelli, Radio 24. Il Sole 24 Ore. Ancora qualche notizia prima di andare a sentire America 24. Come sapete, la versione del lunedì di Effetto Giorno è lievemente più corta perché c'è uno spazio dedicato ad America 24, una sorta di punto sulla settimana che ci attende. Poi l'ultimo quarto d'ora dalle 13.45 alle 14 va in onda la nostra rubrica sull'autotrasporto. Come vi dicevo, un paio di notizie prima di andare a chiudere: una che arriva dall'estero ed è di pochi istanti fa, un attentatore suicida è entrato in un'operazione vicino ad una base aerea americana in Afghanistan, a Bagram, nella provincia centrale afghana di Parwan, causando alcune vittime fra i militari della NATO. Le vittime sarebbero 5 secondo la polizia afghana, 3 secondo un portavoce militare. Quando avremo aggiornamenti ve li daremo. E poi stanno uscendo in questi minuti alcuni dettagli sulla manovra, sulla legge di stabilità, secondo i calcoli realizzati all'ufficio stampa di all'ufficio studi di un sindacato, la UIL. Innanzitutto riguardano i benefici fiscali che otterranno le persone l'anno prossimo ad una coppia di marito e moglie, calcola la UIL, per effetto delle norme della manovra sul rinnovo contrattuale Tasi prima casa e canone RAI. Il beneficio fiscale che arriverà l'anno prossimo sarà di 337 euro, considerando un lavoratore o lavoratrice della pubblica amministrazione con coniuge e con un reddito lordo di 22.000 euro e casa di proprietà. E poi ancora, con l'approvazione della legge di stabilità e con l'abolizione della Tasi sulla prima casa o sull'abitazione principale, i quasi 20 milioni di proprietari il prossimo anno risparmieranno mediamente 191 euro, che salgono a 203 se l'immobile è ubicato nella città capoluogo di provincia. Questi i calcoli realizzati dal servizio politiche economiche e territoriali del sindacato UIL. Noi adesso ci fermiamo, c'è Mario Platero, ci ritroviamo alla fine per i saluti.